fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Ed eccoci qui, buonasera, benvenuti a tutti. È venerdì 13 luglio del 2018, il venerdì doc del convento di Lunato. Io sono ovviamente Master Nick e sono qui nella nostra Risto Radio, la web radio del nostro locale, in compagnia di tanti ospiti o di tante ospite. Non so se sia un nome, come si dice, che vale sia per il maschile e per il femminile, perché nella nostra radio ospitiamo tutti coloro che festeggiano, che hanno un motivo per essere qui e che hanno qualcosa da raccontarci. E a proposito di festeggiati, ne abbiamo una speciale, particolare, protagonista di questa bella serata, di questo venerdì. Diamo il benvenuto ad Alice, benvenuta. Ciao a tutti, buona serata. Oh, senti che bella, tutta parigina. Mosca. No, è bello, è molto, molto affascinante. Allora Alice, da dove vieni intanto? Vengo da Brescia. Da Brescia, e cosa stai festeggiando qui con noi stasera? Sto festeggiando l'addio al nubilato. E infatti dovrete sapere, voi non la potete vedere perché ovviamente state ascoltando o ci ascolterete nelle nostre repliche, tutta vestita di bianco. Quindi direi in tema con la festa e in tema con il colore che più si contraddistingue a questa serata, che fa però da contraltare con la felicità che esprimono tutte le tue amiche rispetto a questa festa. Sottolinea come sono vestite loro. Sono tutte vestite di nero. Perfetto, piene di gioia. Piene di gioia, c'è questo messaggio che sta dilagando da tutta la serata, che è Alice ripensaci, vediamo se alla mezzanotte 59 Alice ha cambiato idea. No, non ancora. No. Non ancora, convinta? No. Yes. Convinta, non vuol mollare. Quando succederà tutto questo? Il primo settembre. Oh, primo settembre è anche una data bella, simbolica, per cominciare una nuova avventura, una nuova vita. Chi è il fortunato? Si chiama Luca. Si chiama Luca? Ma la fortunata sono io. Urca, ella. Quando dice così, e come mai sei tu fortunata? Perché è fantastico. Addirittura? Sì. Fantastico, parole così forti. Sì. Cioè, a luna di di notte, sì, tu hai il coraggio di dire queste parole così importanti. Sì. Addirittura, e come mai? Dai, dici perché, raccontaci perché. Beh, anzitutto, siccome me lo sposo, è fatto così, c'è un bel... Ah no, scusa, ah, ok. No, ha fatto così, detto, sembrava che ci avesse... ha degli occhi fantastici. Infatti, questo è chiaramente... stavo delineando gli occhi. Gli occhi, chiaramente, ecco, dovete sapere che Luca è praticamente agli occhi di un elefante, perché Alice l'ha delineato così, con gli occhi d'elefante. Voi, come sempre, che state ascoltando, non potete vedere, ma più o meno diciamo, ecco, che la forma era cuneiforme, ci ha messo tutte e due le mani occupando un bel po' di spazio. Quindi bene, abbiamo capito che ha gli occhi belli e soprattutto grandi, come il lupo di Cappuccetto Rosso. Esatto. Altre qualità importanti? Ha una testa fantastica. Una testa fantastica. Sì, è la prima volta che fanno i complimenti alla testa. Di solito si guardano altre cose nel corpo di una persona e invece Alice si è innamorata della testa. Sì. Come ti piace la testa di un uomo? Dinamica. Dinamica, quindi così tipo. Esatto, quelli che scuotono continuamente. Esatto, ma partiamo dalle cose importanti. Rotonda? Sì, assolutamente rotonda. Ecco, quindi mi spiace per tutti quelli all'ascolto che hanno una testa quadrata o triangolare, ma voi non siete i tipi di Alice, mi spiace. Ecco, poi ha fatto un altro gesto che significa che dovete avere dei rami sulla testa per affascinarla. No, cosa voleva dire quella cosa lì? Sì, no, che fosse rigoglioso. Rigoglioso. Ecco, sappiate tra l'altro che è tutto vero, cioè non è un'attrice lei, cioè è reale, è una persona reale, normale, insomma, abbiamo qualche dubbio. Per quanto qui a luna di notte uno possa essere normale. Esatto, infatti abbiamo qualche dubbio, però è entrata come una persona normale con tutte le cose a posto e sta dicendo queste bellissime cose spontanee che ancora stiamo cercando di interpretare, ma contiamo nei prossimi minuti di riuscirci. Quindi una testa rigogliosa, tonda, dinamica, che sono cose importanti, con gli occhi grandi e altre praticamente ci sta delineando un marziano, cioè una persona di un altro pianeta che non viene dal pianeta Terra. E difatti l'unico l'ha trovato lei, e anche perché se lo sposa effettivamente, perché è effettivamente l'unico essere umano fatto così e l'ha trovato lei. Adesso non so se l'ha trovato al Brico o all'IKEA magari. In effetti ogni tanto si perde. Infatti non sappiamo se cercava un mobile e ha trovato Luca, o cercava una pianta d'arredamento e ha trovato Luca. Però sta di fatto che se n'è innamorata, insomma qualcosa fa sì che l'abbia fatta innamorare. E chi manda i baci? Ah, no, ok. Mando i baci alle mie amiche che mi salutano. Ah, ok. Bene, li salutiamo anche noi, fanno cuore. Pensavo mandassi baci al riflesso di te stessa e ci fosse anche questa sorta di ego referenzialità nella tua vita. Allora, presentaci un po' le tue amiche, dai, chi c'è allora, qui con te? A mio fianco la mia testimone di nozze, che è Daniela, fantastica. Bene, e bene. Daniela, tra l'altro, serata super. Ha organizzato lei, organizzatrice, molto cioè, bene. Allora, tutte hanno organizzato. Però lei è... Lei penso abbia messo uno zampino. Uno zampino. Tra l'altro volevo sottolineare, perché me l'ha detto a inizio serata e ci tengo a dirlo, Daniela, giusto? Ok. Che è stata scelta come testimone di nozze perché ha una testa rigogliosa e tonda. Quindi questo sottolineiamolo perché è importante da dire. Poi avanti. Poi abbiamo Veronica, Silvia, Anastasia e Mara. Oh, bene, bene, benvenute, che sono state escluse dalla lista perché hanno teste esagonali, esagonali, trapezoidali. Infatti dovete vedere quando passano come le guardano gli altri nel locale, insomma tutti belli straniti. E facciamo anche una menzione a chi è rimasto fuori. Allora abbiamo la Silvia, ci ha salutato Paola, ci ha salutato Valeria, poi sono rimaste là anche Agnese, Simona, un sacco tantissime, di tantissime, tantissime sì, persone, sì, tutte del Bresciano, tutte del Bresciano, sì. Ok, e al di là della testimone, amiche, colleghe, che rapporto hai con loro? Allora, suoniamo insieme. Suoniamo insieme, attenzione che qui si apre un capitolo fantastico, cioè? Cioè cosa fate? È una corale? Siete in 15 nel gruppo? No, suoniamo insieme, suoniamo in orchestra piuttosto che in banda. Orchestra? Sì. Ma è comunale? Comunale, parrocchiale? No. Diciamo lombarda, provinciale. Lombarda. Bello. Provinciale. E quanti elementi compone? Valle Camonica e 50, 50. 50? Sì. Tanti, tantissimi. Ha un nome questa orchestra? Orchestra Fiati di Valle Camonica. Orchestra Fiati di Valle Camonica. Di domani ha un concerto e io faccio un in bocca al lupo gigantesco ai ragazzi fantastici che fanno un concerto. Sì, c'è la Paola dietro al vetro che voi sì, non potete Paola, vedere. Sì, Paola si tocca le guance. Non so. Lei esprime, il collo, esprime il suo amore toccandosi le guance e noi siamo vicini. Eccoci. E poi suoniamo, alcune persone suonano in orchestra Fiati, altre suonano in banda, nella banda in cui io sono cresciuta, che è la banda di Borgo Satolio. Bello, bello. E cosa suonate così veloce? Io suono il clarinetto, Daniela Loboe, e le altre ragazze che sono qua dentro non suonano perché sono amiche. E infatti non sono testimoni dell'Alice, qualcosa vorrà dire. Triangolari. Beh, anche perché non suonano, anche perché vorrei vederle a suonare con la testa triangolare e tutta la bocca storta, sarebbe un bel casino, però insomma... Ma anche lo spot, ma ha la testa tonda, è normale che possa suonare perché ha la testa tonda. Cosa suona il tuo futuro marito? Il mio futuro marito suona la tromba. La tromba, bellissimo. Beh, quindi una famiglia di fiati praticamente. Ma avete mai fatto qualcosa insieme, un duetto, un complessino, no? A casa ci dilettiamo, nell'intimità. Nell'intimità, pensa che bello. Di solito si fanno figli o si passano le notti in un certo modo e loro suonano. Sì. E che bello, loro si esprimono il loro amore così, bello, bello, bello. E anche però nella vita, so che fai un lavoro molto interessante, ma anche faticoso e impegnativo, se ci vuoi raccontare un po'. Insegno nelle scuole medie e sì, è faticoso, cosa? Ma un sacco di soddisfazione, sostegno. Ah, sostegno. Tra l'altro, perdonami, sei anche giovanissima, quindi c'è poco, poca differenza giovane, d'età. Sembro giovane. Vabbè, no, sei giovane. E soffri un po' questa poca differenza d'età oppure riesci a creare un rapporto ancora migliore con loro? Ci sono pro e contro, soffro un pochino in certe situazioni e in altre invece è proprio il punto di forza. Oh, bene, bene, mi fa piacere. E sempre la scuola è sempre sul Bresciano anche quella? Sì, vario, io ogni anno cambio, come tanti miei colleghi purtroppo non sappiamo. Vabbè, certo. Ogni anno è un terno all'otto, però quest'anno sono stata in una scuola meravigliosa a Bagnolo Mella e... e ringrazio tantissimo anche tutti i miei bene, colleghi. Bene, bene. Allora noi approfittiamo per fare ancora gli auguri alla nostra Alice e un in bocca al lupo per il suo futuro matrimonio e ovviamente grazie anche a tutte le amiche dentro e fuori che l'hanno sostenuta e l'hanno accompagnata. Chi è? Cos'è? Non lo so. E fa dei gesti strani. Che non ce la fa. Esatto, li fa dei gesti strani. E dove vi sposerete? Ci sposiamo a Montirone. A Montirone, a Montirone. Quindi avvertiamo, questa è una radio, quindi un microfono che può parlare a tante persone. Avvertiamo tutti gli amici di Montirone e provincia che se il primo. Perché si tocca le tette questa? Non è così, gira toccando. Non sono io, non sono io. No, è sempre quella fuori. Dicevo che se il primo settembre a Montirone provincia vedrete delle persone con delle teste un po' strane e con delle figure, non preoccupatevi, è il matrimonio di Alice. Non siete nel set di Alice nel Paese delle Meraviglie, ma è semplicemente il suo matrimonio. Quindi non spaventatevi e mi raccomando, cercate per quanto possibile di non fare delle facce che reagiscono male, perché ci rimangono male, ne soffrono molto. E quindi ecco, cerchiamo di non farle sentire diverse da noi. Grazie, grazie, sei gentilissimo. Cerchiamo di non farle sentire diverse. So che ci tenevano a dare anche questo messaggio sociale e mi sono sentito in dovere, ecco, di portare il mio, la mia testimonianza, anche perché anche il mio contatto con loro iniziale è stato un pochino restio, poi ci siamo conosciuti, siamo diventati amici e le ho viste come persone normali, insomma, come tutti noi, come tutti noi. Bene ragazzi, è stato un piacere conoscervi, mi raccomando, nell'uscire state attente alla porta, a inclinarvi nel modo corretto. E a parte gli scherzi, dai, un bel augurio ancora alla nostra Alice per il suo futuro matrimonio. Vai, vai, fai un saluto e poi chiudiamo. Grazie a tutti. Beh, vedi, saluto semplice, conciso e di pochissime parole. Grazie ancora Alice, buonanotte. Ciao, buonanotte, buonanotte. E questa continua a far vedere il seno. Bene, bene.